La buona demonessa. C'era una volta, in un villaggio, un produttore di giocattoli chiamato Anders, con sua moglie e il suo figlio. Anders si svegliava la mattina presto, raccoglieva l'argilla e trascorreva la mattina a modellare tutti i tipi di giocattoli. Leoni, cavalli, carretti, re, angeli, principesse. Poi li lasciava nel laboratorio per dipingerli e asciugare e portava quelli già pronti nei villaggi per venderli. Sua moglie si occupava di preparare la colazione e il pranzo. A Anders piaceva molto il cibo e sua moglie cucinava deliziosamente. Lui andava in 4 diversi villaggi ogni giorno per vendere giocattoli. Il tuo pranzo è pronto. Ha un odore così buono che voglio mangiarlo tutto in un boccone. Davvero, credo che tu sia la migliore cuoca al mondo. Vai adesso o arriverai tardi? Sì, adesso devo proprio andare. Ci vediamo stasera. Ciao, padre. Ciao e buona giornata a scuola. Per recarsi in alcuni dei villaggi vicini, Anders doveva spesso attraversare una foresta. Anders adorava sedersi nei boschi, all'ombra di un albero e pranzare con il cinguettio degli uccellini e il suono dell'acqua del ruscello. Era il suo piccolo picnic quotidiano. Un giorno, mentre si stava sedendo a mangiare, passò una demonessa. Che odore delizioso! È odore di cibo questo? Ha un profumo così buono! Deve avere un sapore ancora migliore! Devo assaggiarlo! Quindi, il giorno dopo, la demonessa aspettò che arrivasse Anders e non appena lo vide arrivare in lontananza, si trasformò in una ragazza che si era addormentata sotto un albero. Anderson andò lì e la vide. Cosa ci fa una donna qui in mezzo nella foresta? Ciao, signore. Ehi, e cosa stai facendo in mezzo alla foresta? Mi chiamo Donna. Vengo da un villaggio vicino. Sto viaggiando in cerca di lavoro, ma mi sono persa. Sai dov'è il villaggio di Riverdale? Bene, quello è il mio villaggio. Hai intenzione di lavorare con qualcuno in particolare? No, ho solo bisogno di lavoro. Posso occuparmi del bestiame, aiutare nei campi, pulire la casa. L'unica cosa che non posso fare è cucinare. Mia moglie potrebbe aver bisogno di qualcuno che l'aiuti in casa. Ti piacerebbe lavorare a casa nostra? Sicuro, perché no? Bene, vieni con me. Quindi Anders portò la demonessa a casa sua. Sua moglie era felice di aver qualcuno che l'aiutasse. La demonessa si rivelò un'eccellente lavoratrice. Puliva la casa, badava gli animali, curava il giardino in modo meraviglioso. Presto divenne parte della famiglia di Anders. Adorava il cibo cucinato dalla moglie di Anders. Signora Anders, devi essere la migliore cuoca del mondo. Glielo dico sempre anch'io. Non ho mai mangiato niente del genere in tutti i miei 1000 anni passati nella foresta. 1000 anni nella foresta? Mi dispiace, stavo solo scherzando. Un giorno... Qual è il problema, Harry? Donna, guarda questo, la mia mazza è rotta. Se papà fosse stato qui, l'avrebbe riparata. Dammela, la aggiusterò. Come lo hai fatto? Magia! Stregoneria! Che cosa? Sto solo scherzando, Harry! La moglie di Anders vide e udì tutto e iniziò ad avere un po' di paura. quella notte parlò con Anders. «C'è qualcosa di strano in Donna». «Perché? Non è abbastanza efficiente?» «Un po' troppo efficiente, penso». «Non stai solo pensando troppo». «Donna, puoi prendermi quella palla?» «Sicuro». «Lo hai visto?» «Donna è un essere umano normale». «Lei è una strega! Potrebbe essere pericolosa per il villaggio!» «Anders! Anders, vieni fuori!» «Qual è il problema, amico?» «Anders, devi liberarti di lei! Adesso!» «Ma padre, lei è parte della nostra famiglia ora! Lei è nostra amica! Mi ha riportato la palla e fa così tanto per noi! Ci ha sempre aiutato, mamma!» «Lei è una strega e non potrà mai essere un'amica, Harry!» «Dobbiamo sbarazzarci di lei! Gli abitanti del villaggio portarono delle torce per spaventare la demonessa, ma all'improvviso la fiamma di una delle torce incendiò la capanna di un uomo e suo figlio era proprio lì dentro. «Papà! Aiuto!» «Mio figlio! Veloce, prendete dell'acqua!» «Aspetta!» «Hai salvato mio figlio!» «John, figlio mio, stai bene?» «Lei mi ha salvato, mamma!» «Hai tirato fuori dalle fiamme mio figlio, grazie!» «Visto? Te l'avevo detto, Donna non è un nemico, è nella nostra famiglia, la nostra amica!» «Siamo spiaciuti, Donna!» «Siamo così dispiaciuti che abbiamo visto usare i tuoi poteri e abbiamo pensato tu fossi pericolosa!» «No, non è colpa vostra! Sono io quella che ha mentito ed è venuta qui! La verità è che quando ho visto tuo marito godersi il tuo delizioso cibo, mi è venuto un desiderio immenso di mangiarlo anche io! Ecco perché ho assunto questa forma e sono venuta qui! Non avrei mai dovuto mentirvi. Mi dispiace. Sei una cuoca meravigliosa, signora Henderson. Ma ora, penso che sia ora per me che me ne vada.» «Non andare, Donna.» «Il mio posto è nella foresta, Harry. Ma puoi venire a trovarmi quando vuoi, va bene? Ricorda, se vuoi che le persone si fidino di te, devi essere onesto con te stesso. E giudicare sempre le persone da quello che fanno e non dal loro aspetto. Se sono gentili, non importa a quale razza di creatura appartengano, che siano umani o demoni.»